Da tempi immemorabili circola fra le culture del pianeta quella strana idea concernente la materia, no? Che dagli ridagli, prima o poi, più poi che prima, diventa spirito, assecondando un finalismo che, in virtù di, lo sa Dio di sicuro, che vi sarebbe insito. Esoteria per eccellenza animò l'estenuante ricerca di alchimisti antichi e moderni, mentre, apportati i debiti aggiustamenti, la si ritrova, quest'idea, in forme di pensiero a noi abbastanza vicine, sia nella versione cattolica che in versioni almeno apparentemente di tutt'altra parrocchia. Nella versione cattolica, per esempio, la si ritrova nel pensiero di Teilhard de Chardin, un gesuita piuttosto pasticcione, la cui passione per la paleontologia, nonché una specifica direttiva del Sant'Uffizio che mirava a toglierselo dai piedi, lo spinse fra gli anni 20 e 30 del secolo scorso a viaggi in Mongolia e in Cina, dove con Davidson Black scoprì i resti del sinantropo, uno dei tanti nostri progenitori cui scienza e ideologia, più ideologia che scienza, affidavano il compito di testimoniare un'origine asiatica dell'Homo sapiens in contrapposizione alle più imbarazzanti ipotesi circa un'origine africana. Vabbè, che questi resti del sinantropo poi siano andati persi nel 41 in un tentativo di evitare che cadessero in mano giapponese, portandoli al sicuro nella culla di ogni civiltà rappresentata dagli Stati Uniti d'America, fa parte di un'altra storia che un giorno bisognerà pur raccontare. E qui mi preme fare un cenno alle teorie di Teilhard. L'intera storia della vita sul pianeta sarebbe, a suo giudizio, giustificata dalla presenza dell'uomo. Sarebbe in atto un processo inesorabile che contempla la supremazia dello spirito sulla materia. Staremmo tutti dirigendoci verso il fatidico punto omega, in cui avverrà una sorta di apoteosi divina. La selezione naturale c'è. La selezione naturale c'è e lavora, d'accordo, ma riguarda solamente le specie inferiori. Il momento della cerebralizzazione, no? Il momento in cui si è formato il cervello, ha rappresentato per l'uomo un salto decisivo nella scala della natura. E dunque, umanità e grandi scimmie nulla avrebbero a che fare l'una con le altre. Una versione più anarchica, mi si passi il termine, una versione più anarchica del tragitto della materia verso lo spirito, la ritroviamo nelle teorie di, per l'appunto, l'anarchico Carlo Cafiero. Sembrerà strano. Ricco di famiglia, studia legge, tenta la carriera diplomatica, poi va a Londra. A Londra però incontra vari personaggi, fra cui Marx ed Engels, torna in Italia, incontra Costa e Malatesta, con i quali prova qualche insurrezione fatalmente destinata alla rovina. Ripara in Svizzera, dove, infervorato da Bakunin, mette tutti i soldi che gli rimangono per la costruzione della Baronata, che era una sorta di rifugio per esuli anarchici che, ecco, per una fortuna che non potrà più arridergli, riuscirà poi a rivendere, sì, qualche anno dopo. Fra arresti e litigi con i compagni di strada, Cafiero si ammala, e ciò che lo aspetta sarà un doloroso calvario di manicomio in manicomio fino alla morte per tubercolosi intestinale nel 1892 nella natia Barletta. Orbene, ecco, fra le tesi più curiose che caratterizzano il pensiero di Cafiero c'è quella che lo ha spinto a sostenere contemporaneamente darwinismo e creazionismo. Umanità, animali e vegetali sono per Cafiero assoggettati alle leggi di un'evoluzione che in pratica non avrebbe la licenza di uccidere, considerato che tutte le loro specie sarebbero state create ab eterno, no? In vista di una soluzione finale che in altro non consisterebbe che in una spiritualizzazione della materia. Species tot numeramus, quot a principio creavit infinitum ens. Ovvero, mi perdoni la pessima traduzione dell'Oliva che di latino ne sa più di me, tante sono le specie quante quelle create in principio dall'ente infinito. Così scriveva il naturalista svedese Carl von Linné, italianizzato in Linneo, in quel Sistema Nature che dal 1735 pubblicò e ripubblicò in ben 13 edizioni. E questo fu il bersaglio di studiosi come Lamarck, Cuvier, Wallace e Darwin, ai quali si deve nell'arco di un secolo proprio quella gamma di concetti, anche in lotta fra loro peraltro, quella gamma di concetti che definiscono la teoria evolutiva. Per dirla con l'amico Somenzi, l'elemento nuovo che caratterizza la teoria darwiniana dell'evoluzione e i suoi successivi sviluppi rispetto al generico trasformismo che in qualche maniera si opponeva al creazionismo, l'elemento nuovo è costituito dal principio della selezione naturale, che attribuisce all'ambiente la capacità di accelerare i processi evolutivi per quel tanto che basta, perché tra i ventagli di possibilità offerti dalle variazioni spontanee del materiale ereditario degli organismi primordiali emergano in miliardi di anni tutte le specie viventi che hanno popolato o che popolano tuttora il pianeta. Il biologico sarebbe sottoposto ad un gioco di mutazioni e interazioni selettive che, pur apparendo nel suo insieme casuale, non per questo sfuggirebbe alle leggi formulate dalla fisica e dalla chimica. La differenza fra le due parti in causa, fra creazionismo ed evoluzionismo, dunque, è la differenza fra chi non accetta l'assunzione di un atteggiamento scientifico nei confronti dei fenomeni della vita e chi invece l'accetta caricandosi le spalle dei fardelli conseguenti. Perfino questo Papa, Giovanni Paolo II, si è accorto della consistenza della posta in gioco e più o meno sulla scia di un Teilhard de Chardin si è provato a lasciare in pace l'idea evoluzionistica, a patto che, contraddittoriamente, non gli si tocchi la particolarità dell'uomo. Perfino il Papa, ma non l'alleato nazionale Pietro Cerullo, che nei giorni scorsi ha fatto tanto parlare di sé per aver organizzato un convegno in cui, al grido del darwinismo come elemento dell'egemonia culturale della sinistra, si invitava a bandire l'evoluzionismo stesso dell'insegnamento scolastico del nostro già derelitto paese. Ricordo banalità storiche. Non so, nell'Europa del Sant'Uffizio c'è chi ha perso la vita per aver sostenuto tesi reputate in contrasto con quelle di Aristotele. Nella Germania nazista venne proibito l'insegnamento della teoria della relatività e di tutta una parte della fisica che all'uopo venne categorizzata come giudaica. Gli stati autoritari hanno sempre esercitato la censura del sapere. Nella versione mistificata del più adatto, il darwinismo, poi Nella versione del più adatto, del famoso il più adatto, che è il più adatto che sopravvive, beh, il darwinismo, a dire il vero, è stato utilizzato a man bassa dai sistemi ideologici reazionari, mentre è stato osteggiato, assumendo un punto di vista più lamarckiano, in quell'Unione Sovietica degli anni 30 e 40, che non dovrebbe proprio costituire un punto di riferimento positivo per l'alleato nazionale cerullo. Allorquando si sostiene una tesi in spregio e alla storia e al buon senso condivisi, e allorquando nulla e nessuno lo impedisce, c'è da temere il peggio. Quel peggio che già c'è è che gradualmente un'ombra oggi, uno scorcio domani, affiora a quel che rimane delle nostre coscienze. Pretty women are walking with gorillas down my street.